Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti Estate, voci dalla nuova emigrazione, puntata ferragostana del nostro programma nella quale vi porteremo come sempre in giro per il mondo. E se in giro per il mondo già ci siete o ci vivete e magari ci state ascoltando via internet, a voi va un caloroso saluto da Milano. Non vi dimentichiamo, sappiamo che siete al di là delle Alpi e del Mediterraneo e sappiamo perché avete scelto di lasciare l'Italia. Per questo abbiamo deciso di raccontarvi e raccontare le vostre storie settimanali. Settimana dopo settimana. Per tutti gli altri che ci ascoltano dalle spiagge, dalla montagna o dalle città, alzate il volume e prenotatevi due biglietti, il primo per la Germania e il secondo per gli Stati Uniti. La parola d'ordine oggi è ingegneri. Anche loro emigrano dall'Italia, soprattutto se giovani e con la voglia di costruirsi un futuro in ambienti sani e competitivi. Ambienti dove la parola raccomandazione non esiste, dove i salari corrispondono alle competenze, dove essere giovani e di talento non rappresenta un handicap, ma un valore aggiunto. Siete pronti allora a imbarcarvi per il nord della Germania? Tra pochi secondi saliamo su un volo con destinazione Brema, città libera, città anseatica, a pochi chilometri dal mare del nord, per raccontarvi la storia di Alessandro Gugino, ingegnere aerospaziale di 32 anni, originario del Lazio. Nome: Alessandro. Cognome: Gugino. Età: 32. Città di origine: Latina. Studi: ingegneria aerospaziale. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2006. Per andare dove? A Monaco di Baviera. Perché? Per lavorare sul progetto ESA di Galileo. Quale lavoro svolge attualmente? Sono responsabile della verifica a livello di sistema. Dove? A Brema. Tornerai? Probabilmente. Mr. President Coco Jumbo, e molti di voi si ricorderanno di questo successo estivo mondiale del 1996. Quello che probabilmente ignorate è che, a dispetto dei ritmi caraibici, i Mr. President arrivavano proprio da Brema, profondo nord della Germania. A Brema vive da qualche settimana anche Alessandro Gugino, passato dal profondo sud bavarese, dove si trovava fino a pochi giorni fa, alle rive del fiume Vesa. Allora Alessandro, come si sta a Brema? Ma al momento diciamo che la situazione è abbastanza positiva. Abbiamo passato delle settimane di sole, quindi sicuramente questo conforta chi arriva per la prima volta nella città di Brema. Alessandro, partiamo un po' a parlare della tua storia. La tua storia è interessante anche perché tu hai una laurea in un settore di prestigio, l'ingegneria aerospaziale, eppure sei anche tu emigrato. Partiamo dal tuo percorso di studi. Come percorso di studio ho iniziato diciamo a Latina con la maturità classica, poi ho deciso di prendere appunto ingegneria aerospaziale presso l'Università La Sapienza di Roma. Era un settore in quel momento per me abbastanza sconosciuto e quindi poteva propormi delle future possibilità, e quindi ho iniziato appunto a muovermi nell'interno dell'università per 5 anni. Ecco Alessandro, in quello che tu hai scritto a Giovani Talenti @radio24.it emerge un po' un ritratto in chiaroscuro dell'università. Esprimi forti apprezzamenti per i tuoi professori, però poi sul fronte universitario dici: beh, mancava forse un po' di pratica, no? Sicuramente continuo a ringraziare i professori per tutto quello che hanno dato e hanno contribuito al mio bagaglio culturale. Quello che ho visto una volta poi uscito dall'Italia è l'assenza dalla parte industriale o piuttosto pratica dell'attività. Si rimane comunque in una zona, in un campo molto molto teorico. Personalmente il primo satellite intero io l'ho visto una volta entrato a lavorare nell'industria, quindi questo è quello che al momento vedo. Tu ti laurei in ingegneria aerospaziale e poi, prima ancora di entrare nel mondo del lavoro, fai un'esperienza nell'aeronautica militare, giusto? Ero l'ultimo dell'anno per cui il militare era obbligatorio. Ho deciso di fare questa esperienza e di farla a livello un po' più alto, come ufficiale di complemento nell'aeronautica militare. Ed è stata un'esperienza che è stata molto molto positiva. Ho conosciuto persone importanti che mi hanno dato anche tanto, perché comunque ho lavorato in un gruppo tecnico a pratica di mare, e entrare in un mondo che non è il mondo di tutti i giorni, il mondo in cui ti vesti naturalmente in divisa, risulta essere dall'esterno strano, ma una volta che sei dentro ti devo dire la verità, è sicuramente una cosa molto molto molto interessante. Sì, infatti tu hai parole anche di elogio per questa esperienza non solo umana ma anche professionale. Poi tu resti per un certo periodo di mesi all'interno dell'aeronautica militare e a quel punto però decidi ovviamente di fare il salto, entrare nel mondo aziendale, nel mondo del lavoro, e inizia una tua attività come consulente e la inizi a Torino, giusto? Sì, io praticamente sono stato contattato quasi l'ultimo giorno in divisa da un'agenzia di consulenza di Torino che mi prospettava la possibilità di andare a lavorare appunto a Torino presso la Regna Spazio di allora per un progetto satellitare molto importante, era Herschel Planck, sempre diciamo un progetto ESA. Quindi è stato per me il primo incontro con l'industria ed è stato appunto l'ingresso nel mondo industriale vestito da consulente, un vestito che mi sono portato fino praticamente a pochi giorni fa, perché io comunque anche a Monaco ho lavorato come consulente per un'altra azienda, quindi diciamo la consulenza è stata per me l'ingresso nell'industria. Su questo capitolo cito quello che scrivi alla giovanitalenti@radio24.it: apriamo quindi la cartella personale, consulenza. Ad oggi, se non hai qualche amicizia che ti possa guidare nel mondo del lavoro aziendale, la prima via è quella della consulenza. Perché? Scrivi tu. Perché, ti chiedo io? Perché fondamentalmente il sistema di consulenza italiano è un sistema molto molto diverso da quello europeo. In Italia diciamo la consulenza è più un procacciare dei giovani ragazzi che escono dall'università per poi inserirli nel mondo lavorativo. Il discorso qual è? Che secondo me essere consulente significa avere una base e prestare le proprie capacità a un'azienda che in quel momento ha bisogno per un tot di tempo di una persona con grandi capacità. In Italia invece diciamo l'idea è l'opposta. Io ti faccio assumere da un'azienda, sempre come consulente, ma tu sei un nuovo laureato, quindi entrerai in quell'azienda e ti avvicinerai ad una persona che ha più esperienza di te e cercherai naturalmente di apportare un qualcosa in più. Quindi diciamo, come vedi, sono due cose abbastanza diverse. Nel caso italiano l'esperienza del consulente è mancante per la maggior parte dei ragazzi che entrano poi, giustamente, perché avendo appena studiato, avendo appena finito l'università, non hanno quell'esperienza che può avere effettivamente un vero e proprio consulente. E quindi per me il lato negativo è questo, un po' tra virgolette è uno sfruttamento un po' dei ragazzi che comunque uscendo dall'università si immaginano una grande possibilità lavorativa e invece diciamo iniziano con questo sistema che secondo me ultimamente è andato proliferando non poco in Italia. Alessandro, questo non avviene in Europa però? Ma in Europa diciamo ci sono ancora possibilità di entrare nelle aziende, cosa tra virgolette rara in Italia. Diciamo i consulenti che io ho conosciuto sia a Monaco che conosco adesso qui a Brema sono delle persone che hanno veramente un grande bagaglio culturale, hanno fatto esperienza diciamo in tutti i campi, non solo nel campo spaziale, anche nel campo automotive, e hanno lavorato anche in America, quindi sono persone con veramente grande esperienza, io le ritengo veramente dei consulenti. Dopodiché tu ti trasferisci a Monaco di Baviera, a fare cosa e perché? Sempre come consulente richiesi a Torino, ai miei responsabili, la possibilità di fare un'esperienza all'estero. Fortuna vuole, ho trovato questa posizione aperta appunto a Monaco di Baviera per il progetto Galileo, il progetto del GPS europeo, e ho lavorato per 4 anni lì per aiutare diciamo i nostri colleghi tedeschi nella parte del processo di verifica e nella stesura delle specifiche. Quindi diciamo è stato un lavoro per me molto importante, perché precedentemente a Torino lavoravo nella parte di integrazione, quindi era per me un salto verso l'estero ma anche un salto in avanti per quanto riguardava la mia professione. Facci capire, perché ingegnere aerospaziale è una qualifica assolutamente altisonante e lascia anche un po' sognare, se vogliamo, no? Tutti noi siamo cresciuti col mito dello spazio. Hai visto dei satelliti, hai lavorato su dei satelliti, cosa hai fatto? Sì, effettivamente quando dici che sei ingegnere aerospaziale ancora le persone ti guardano stupito pensando che dal momento all'altro esce fuori una navicella che ti porta via. Quello che ho fatto a Torino è stato effettivamente lavorare sul satellite. L'integrazione è una parte molto importante del processo di produzione satellitare. Lì a Torino avevamo la camera pulita con il satellite presente, quindi come ti ripeto è stato per me una grande sorpresa vedere un vero satellite in costruzione, e io ho partecipato appunto alla costruzione di impatti parte, una piccola parte di questi due satelliti, di Hesse e di Planck. Invece a Monaco sono passato, diciamo, su una parte più di carta, cioè nel senso, in quel caso eravamo una parte di, diciamo, di progetto, per cui alla fine scrivevamo tutte le specifiche che potevano successivamente aiutare i ragazzi di Roma, perché l'integrazione di Galileo IOV avviene a Roma, appunto a fare l'integrazione, a fare quello che io ho fatto precedentemente a Torino. Tu un mese fa ti trasferisci, come dicevamo, a Brema, diventi a tutti gli effetti, possiamo dire, tedesco, anche perché, se capisco bene, non sei più consulente, quindi lavori, esatto, direttamente per un'azienda tedesca. E cosa fai? Adesso io lavoro sempre sul progetto Galileo, perché è un progetto molto molto lungo e si parla adesso dei successivi 14 satelliti, precedentemente a Monaco erano i primi 4, e mi occupo adesso, sono responsabile della verifica a livello di sistema del processo di produzione, nel senso il satellite naturalmente viene costruito a seguito di requisiti che vengono dati da alti livelli, in questo caso dall'ente spaziale europeo. Io mi occupo di controllare se tutti questi requisiti vengono flussati fino, diciamo, ai livelli più bassi, fino all'azienda che produce, non dico il bullone, ma comunque le unità primarie per il satellite, e contemporaneamente sono in contatto appunto sia con le aziende sia con l'ente spaziale europeo per dare loro visione del fatto che il processo di verifica si sta attuando e non ci sono problemi. Com'è che un ingegnere aerospaziale emigra? Emigra perché le possibilità che comunque una persona con questa laurea ha all'estero sono molto più invoglianti rispetto alla possibilità di continuare a lavorare in Italia. In Italia la grande azienda aerospaziale rimane comunque l'attuale Thales Alenia Spazio, e un'azienda che il reputo ancora molto molto forte, ma all'estero iniziano comunque a prendere piede anche aziende che, se ieri erano piccole, adesso iniziano a diventare grandi, come quella per cui adesso sto lavorando. Alessandro, domanda di rito: come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va, cosa cambieresti e come? L'Italia rimane il mio paese, quello in cui sono nato e quello in cui probabilmente vorrei tornare, adesso, non adesso ma in futuro. Quello che vorrei cambiare sicuramente è un sistema politico che al momento personalmente non piace, ma soprattutto un sistema anche industriale che limita l'ingresso dei ragazzi una volta usciti dall'università. E prima di proseguire con il viaggio nel mondo dei nostri giovani espatriati, apriamo lo spazio Emigranti, dedicato alle associazioni e alle iniziative che si occupano di quella che possiamo definire come la nuova emigrazione. Oggi parliamo di un sito web che in pochi anni ha registrato un grande successo di contatti. Il nome è tutto un programma, Cervelli in Fuga, un luogo virtuale di incontro dei nostri espatriati, come ci racconta Filippo Addari, uno dei cofondatori. Nel 2007 uscirono molti articoli nella stampa internazionale che criticavano l'Italia per un verso o per un altro. Io e un piccolo gruppo di amici, essenzialmente basati qui a Londra, eravamo abbastanza infastiditi, uno perché siamo italiani e eravamo e siamo ancora stufi di essere sempre presi in giro, criticati come italiani, due perché pensiamo che l'Italia non sia soltanto da criticare, ma ci siano un sacco di belle cose, e quindi decidemmo di creare essenzialmente un luogo per noi e per altri italiani che vivono all'estero per parlare dell'Italia in un modo diverso e per collegarci gli uni con gli altri attraverso l'Italia. Questo era il 2007. Dopo pochi mesi persone cominciarono a collegarsi, a leggere, a commentare e a proporre idee, quindi senza alcuna pretesa il sito è partito come luogo di discussione alternativa, positiva, tra gli italiani. Quanti iscritti avete? Registrati sono qualche centinaia, ma il grosso viene da persone che non sono registrate e che leggono il sito. Quindi la maggior parte non sono iscritti, ma leggono il sito, e c'è un enorme gruppo che lo fa dall'Italia. Parliamo del profilo degli utenti. Che tipo di storie avete raccolto, avete potuto leggere? Le storie sono sempre più o meno le stesse, persone più o meno brillanti che hanno lasciato l'Italia perché non trovavano delle opportunità di lavoro, quindi sono più o meno tutti professionisti, più o meno tutti riusciti nel loro campo. I campi sono molto diversi perché c'è l'università, c'è la finanza, ma io ad esempio opero nel mondo delle ONG, Erika è nello sport. Quindi ci sono tutti i campi professionali. Quello che ci accomuna è essenzialmente il fatto che siamo dovuti partire per trovare successo nella nostra professione, per realizzare le nostre